Allora Giuda, suo figlio, detto Maccabeo, si levò al suo posto, e tutti i suoi fratelli e quanti avevano aderito a suo padre gli diedero il loro appoggio e combatterono la guerra di Israele con entusiasmo. Egli estese la gloria del suo popolo, qual gigante indossò la corazza e cinse le sue armi di guerra, sostenne battaglie e protesse l'accampamento con la spada. Fu simile a un leone nelle sue imprese e a un leoncello ruggente sulla preda. Inseguì gli empi che scovava e diede alle fiamme i perturbatori del suo popolo. Venivano meno gli iniqui per paura di lui e tutti gli operatori di iniquità restavano sconvolti. Per suo mezzo la liberazione ebbe buon esito. Amareggiò molti re e rallegrò Giacobbe con le sue imprese. La sua memoria sarà sempre in benedizione. Percorse le città di Giuda e vi sterminò gli empi. Distolse l'ira da Israele. Si rese famoso fino all'estremità della terra e radunò i dispersi. Apollonio aveva radunato, oltre ai gentili, un grosso esercito dalla Samaria per combattere contro Israele. Come Giuda lo seppe, gli mosse contro, lo batté e l'uccise. Molti caddero feriti e altri fuggirono. Presero le loro spoglie, ma la spada di Apollonio se la prese Giuda, che poi combatté con essa tutti i suoi giorni. Seron, capo dell'esercito di Siria, udito che Giuda aveva radunato attorno a sé uno stuolo di fedeli e di uomini pronti ad uscire in guerra, disse: «Mi farò un nome e mi renderò glorioso nel regno. Combatterò contro Giuda e contro i suoi uomini che disprezzano il comando del re». Si mosse e una forte armata di empi salì con lui per aiutarlo a far vendetta sui figli di Israele. Giunti alla salita di Bet-Coron, Giuda gli mosse contro con pochi uomini. Come videro l'armata che marciava contro di essi, questi dissero a Giuda: «Come potremo noi, che siamo così pochi, combattere contro una moltitudine così grande e forte? Siamo estenuati, essendo oggi ancora digiuni». Ma Giuda rispose: «È facile che molti cadano per mano di pochi, e non c'è differenza davanti al cielo salvare per mezzo di molti o di pochi, perché in guerra la vittoria non sta nella grandezza dell'esercito, ma è dal cielo che viene la forza. Costoro ci vengono contro pieni di insolenza e di nequizia, per disperdere noi, le nostre donne e i nostri figli, e per spogliarci, ma noi combatteremo per le nostre vite e per le nostre leggi. Egli li annienterà dinanzi a noi, perciò non abbiate paura di loro». Come ebbe finito di parlare, irruppe sopra di loro all'improvviso e Seron e la sua armata rimasero annientati davanti a lui. Li inseguirono per la discesa di Bet-Coron fino alla pianura e ne caddero 800 uomini. Gli altri fuggirono nella terra dei Filistei. Così Giuda e i suoi fratelli cominciarono ad essere temuti e lo spavento si sparse sulle genti all'intorno. La sua fama pervenne al re e delle gesta di Giuda parlavano le genti. Appena il re Antioco udì queste notizie, arse di sdegno e mandò a radunare tutte le forze del suo regno, un'armata molto potente. Aprì il suo erario e pagò il soldo alle truppe per un anno, comandando loro di tenersi pronti per qualunque necessità. Vedendo però che il danaro veniva a mancare dai suoi tesori e che i tributi della regione erano scarsi a causa della discordia e della calamità che egli stesso aveva procurato nel paese per avere abolito le usanze che esistevano fin dai tempi antichi, ebbe paura di non aver più niente, come gli era accaduto una o due volte, per le spese e per i donativi che egli per l'innanzi aveva dispensato con mano larga, superando i re precedenti. Preso da grande angustia nell'animo, decise di recarsi in Persia per raccogliere i tributi delle province e per radunare molto danaro. Pertanto lasciò Lisia, uomo illustre di stirpe regale, alla direzione degli affari del regno, dal fiume Eufrate fino ai confini dell'Egitto, e come tutore di suo figlio Antioco fino al suo ritorno. gli affidò metà delle truppe e gli elefanti e gli diede ordini intorno a quanto desiderava, anche nei riguardi degli abitanti della Giudea e di Gerusalemme, che inviasse contro di essi un esercito per abbattere e distruggere la forza di Israele e il resto di Gerusalemme, facendo scomparire anche il loro ricordo dal luogo, e che in tutti i loro territori immettesse abitanti stranieri, distribuendo per lotti la loro terra. Poi il re prese l'altra metà delle truppe, partì da Antiochia, capitale del suo regno, l'anno 147, e attraversato il fiume Eufrate si mise a percorrere le regioni settentrionali. Lisia scelse Tolomeo, figlio di Dorimene, Nicanore e Gorgia, uomini potenti tra gli amici del re, e li inviò con 40.000 uomini e 7.000 cavalieri ad invadere la terra di Giuda e a devastarla secondo il comando del re. Essi partirono con tutte le loro truppe e vennero ad accamparsi nei pressi di Emmaus, nella pianura. I mercanti della regione, quando ne ebbero notizia, presero argento e oro in grande quantità e delle catene e vennero all'accampamento per acquistare i figli di Israele come schiavi. Ad essi si unirono milizie di Siria e di paesi stranieri. Giuda e i suoi fratelli videro che i mali si erano moltiplicati e che le truppe si stavano accampando ai loro confini e vennero a sapere quanto il re aveva ordinato di fare contro il popolo a rovina e sterminio. Perciò si dissero l'un l'altro: rialziamo il nostro popolo dall'abbattimento e combattiamo per il nostro popolo e per il santuario. Allora si convocò l'assemblea per prepararsi alla guerra, per pregare e per implorare pietà e misericordia. Gerusalemme era spopolata come un deserto, non vi era tra i suoi figli chi entrasse e uscisse. Il santuario era calpestato e figli di stranieri erano nell'acra, abitazione per i gentili. La gioia era stata rapita a Giacobbe, il flauto e la cetra erano scomparsi. Si radunarono dunque e vennero a Masfa di fronte a Gerusalemme. In Masfa, infatti, anticamente vi era stato un luogo di preghiera per Israele. Digiunarono quel giorno e si rivestirono di sacco, sparsero cenere sul loro capo e si stracciarono le vesti. Spiegarono il libro della legge per scoprirvi quelle cose per le quali i gentili consultano i simulacri dei loro idoli. Portarono le vesti dei sacerdoti, le primizie e le decime, fecero venire i nazirei che avevano compiuto i loro giorni e alzarono la voce al cielo dicendo: «Che cosa faremo di costoro e dove li condurremo? Il tuo santuario è calpestato e profanato, i tuoi sacerdoti sono nel lutto e nell'umiliazione. Ecco, le genti si sono radunate contro di noi per annientarci. Tu sai ciò che essi macchinano contro di noi. Come potremo resistere davanti a loro se tu non ci aiuti?» Poi fecero risuonare le trombe e alzarono grandi grida. Dopo di ciò, Giuda stabilì i comandanti del popolo, capi di 1.000, di 100, di 50 e di 10. Disse a coloro che stavano edificando una casa o che dovevano prendere moglie o che avevano piantato una vigna, e ai paurosi, di tornare ciascuno alla propria casa, secondo la legge. Quindi l'esercito si mosse e venne ad accamparsi a sud di Emmaus. Disse Giuda: «Cingete le armi, siate forti e state pronti fin dal mattino per combattere contro questi gentili che si sono radunati contro di noi per distruggere noi e il nostro santuario. Infatti, è meglio per noi morire in battaglia che vedere la rovina della nostra gente e del santuario. Però, quale che sia la volontà del cielo, così egli faccia».